133. Salsa tonnata. È una salsa da potersi servire coi lessi tanto di carne che di pesce. Tonno sott'olio, grammi 50. Capperi spremuti dell'aceto, grammi 50. Acciughe numero 2. Rossi d'uova sode numero 2. Un buon pizzico di prezzemolo. L'agro di mezzo limone. Una presa di pepe. Olio quanto basta. Nettate le acciughe e poi tritatele con la lunetta, insieme col tonno, i capperi e il prezzemolo. Pestateli dopo nel mortaio coi rossi d'uovo e qualche poco d'olio per ammorbidire il composto e poterlo passar meglio dall'ostaccio. Indi diluitelo con molto olio e il sugo di limone per ridurlo come una crema liquida.